24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le brutte notizie del fine settimana sul fronte finanziario. L'agenzia di rating Standard & Poor's è pronta al taglio del rating di Francia, Italia e Spagna, mentre la Grecia ha interrotto le trattative con le banche, una mossa che potrebbe portare al default. L'Italia resta intanto osservata speciale. Oggi vi racconteremo le ultime sulla crisi rifiuti in Campania, con il bel paese che rischia seriamente una maxi multa da Bruxelles, mentre cresce la popolazione tedesca. Il perché ve lo sveleremo tra poco. In apertura l'anticipazione che ha portato nuove turbolenze sui mercati finanziari proprio in chiusura di settimana. L'agenzia di rating Standard & Poor's avrebbe deciso di tagliare il rating della Francia, risparmiate Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Standard & Poor's sarebbe pronta a tagliare anche il rating sovrano dell'Italia e della Spagna, oltre a quello di Parigi e di alcuni altri paesi a AAA. Stallo intanto nelle trattative sul debito greco. L'Istituto di Finanza Internazionale, che ha avviato le trattative con Atene per conto delle banche, ha annunciato di aver sospeso i negoziati in quanto i colloqui non hanno portato a una risposta costruttiva tra le parti. Per questo motivo l'ILIF ha deciso una pausa di riflessione. Fonti vicine al governo di Atene, riporta l'agenzia France Press, parlano di una situazione molto grave dopo l'interruzione delle trattative. Mercoledì si terrà ad Atene un nuovo incontro tra Charles Dallara, presidente dell'istituto, il premier greco Lucas Papademos e il ministro delle finanze Evangelos Venizelos. Intanto l'Italia resta al centro dell'attenzione europea. Sentiamo. Non sono ancora finiti gli esami per il nostro paese a livello europeo, nonostante i vari viaggi dello stesso presidente del Consiglio Monti a Bruxelles, Parigi e Berlino. Sono ancora diverse infatti le prove di solidità e rigore che Palazzo Chigi deve dimostrare agli appuntamenti già fissati per fine gennaio. L'Eurogruppo il 23, il Consiglio Europeo il 29. Se ne aggiunge infatti un terzo che slitterebbe a questo punto alla prima metà di febbraio. Si tratta dell'illustrazione del cosiddetto decreto Salva Italia più le misure per la crescita davanti all'Europarlamento. Lo chiede lo stesso presidente dell'Assemblea, Jerzy Buzek, in una lettera inviata al premier Monti. Analoga lettera il presidente dell'Europarlamento l'ha spedita al primo ministro greco Lucas Papademos. Da Bruxelles fanno notare intanto come la crescita non potrà essere perseguita con politiche di disavanzo, sarebbe una crescita effimera. Si tratta invece di sfruttare, fanno notare i tecnici europei, tutto il potenziale di un continente integrato per crescere di più, cosa che finora non è stato fatto. Argomento questo che lo stesso Monti ha condiviso con la cancelliera Angela Merkel, facendo notare che una maggiore crescita è una condizione indispensabile per garantire la disciplina. Vincenzo Miglietta, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. L'Unione Europea condivide la posizione del Fondo Monetario Internazionale sulla necessità di vedere un forte impegno da parte del governo ungherese prima di cominciare a pensare di avviare i negoziati preliminari per la concessione degli aiuti finanziari chiesti da Budapest. Gigi Donelli ha intervistato proprio a Budapest Giulia Vasarely, giornalista ed esponente della società civile che ha organizzato la manifestazione del 2 gennaio contro il governo Orban. Era una sera molto importante secondo me, perché fino adesso solo qualche migliaia sono scesi in piazza per ribellarsi o contestare contro il regime di Orban, questo regime veramente autoritario. Però secondo me era un po' o molto tardi, perché ormai la nuova Costituzione è entrata in vigore il 1 gennaio. Avremmo dovuto fare molto più prima questa manifestazione. Però era importante, eravamo molti in piazza, era un'atmosfera molto, molto quieto, molto simpatico, eccetto un piccolo gruppo di estrema destra. Io ero accanto a loro e loro hanno provocato, veramente provocato la gente, erano molto violenti. Io non so cosa abbiamo raggiunto con questa manifestazione, perché il potere a Orban e il suo partito hanno festeggiato l'entrata in vigore della nuova Costituzione, che è veramente antidemocratica e contro l'indipendenza delle istituzioni nazionali come la Banca Centrale, come la Corte Costituzionale. Loro hanno cambiato le regole delle elezioni. Poi c'è questa legge bavaglio per i media, per la stampa e ancora tante cose. Ecco, come è stata raccontata e rappresentata la manifestazione del 2 gennaio all'interno dell'Ungheria? Dato che ormai ce ne sono pochissimi giornali o televisioni o radio indipendenti o di opposizione, le televisioni statali o pubbliche sono in mano di Orban, dunque loro hanno mostrato queste televisioni delle strade vuote, era veramente ridicolo perché 70 o 100 mila in piazza non si può mostrare al TG delle strade vuote, però loro manipolano le notizie e anche le immagini giorno per giorno. Dunque ormai in Ungheria non si può informarsi correttamente. Qualcuno che non appartenga a un partito, soltanto un cittadino o una cittadina ungherese, non ha la possibilità di avere informazioni corrette. Chiusura in calo ieri per le borse europee, che hanno invertito la rotta nel pomeriggio quando è emerso che l'agenzia di rating Standard & Poor's era sul punto di tagliare il giudizio su alcuni paesi dell'Eurozona. A peggiorare il quadro hanno contribuito anche le notizie provenienti dalla Grecia. Il FTSE MIB ha chiuso a meno 1,20%. Chiusura in calo per le borse europee che hanno invertito rotta nel pomeriggio dopo le prime indiscrezioni sul taglio del giudizio sui paesi dell'Eurozona da parte di Standard & Poor's. A peggiorare il quadro hanno contribuito anche le notizie provenienti dalla Grecia, dove le trattative con le banche creditrici e il governo si sono arenate. Il FTSE MIB ha perso l'1,2%. Sono andati giù i titoli industriali e quelli bancari, come MPS che ha lasciato sul parterre il 5%. Unicredit però è salita di mezzo punto percentuale, mentre sta andando avanti l'aumento di capitale da 7,5 miliardi. Il contraccolpo accusato dai mercati ha messo in secondo piano l'operazione annunciata nella notte di imminente integrazione tra Fondiaria SAI più 7,7%, Milano Assicurazione più 8,3% e Unipol, scivolata del 3,3%. Unipol lancerà un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni di Premafin più 16,5%, la scatola che controlla Fondiaria SAI, al prezzo di 0,3656 euro, dopo aver acquistato il pacchetto della holding in mano alla famiglia di Gressi. La società bolognese però ha chiesto l'esenzione dall'OPA su Fondiaria SAI. Eleonora Micheli da Radio Corp, Radio 24 e Il Sole 24 Ore. E ora l'emergenza rifiuti in Campania. Entro la fine di gennaio occorre trovare una soluzione, altrimenti l'Italia rischia una multa da 500.000 euro al giorno. Sentiamo. La questione dei rifiuti in Campania si avvia a una svolta che potrebbe avere conseguenze molto costose per l'Italia. Domenica mezzanotte, infatti, scade il termine entro il quale il nostro paese deve presentare a Bruxelles il piano per i rifiuti di Napoli. Ma fino ad oggi, ha spiegato Joe Hannon, portavoce del commissario europeo Janez Potocnik, a Bruxelles non è arrivato nulla. Considerando il giorno festivo, per Hannon la risposta potrà arrivare anche lunedì, ma dovrà essere sostanziale e concreta, non una lettera generica. Anche il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, è preoccupato. Entro fine gennaio, ha detto, dobbiamo trovare una soluzione, altrimenti rischiamo una multa di 500.000 di euro al giorno finché non risolviamo la faccenda. Non solo, ma secondo Clini, il tema dei rifiuti di Napoli potrebbe riproporsi presto in Sicilia, Calabria e Lazio. Nel frattempo, un primo passo verso la soluzione è arrivato dal Consiglio dei Ministri, che ha approvato un decreto per agevolare il trasferimento della spazzatura fuori dalla Campania. Sarà quindi possibile mandare negli impianti di altre regioni i rifiuti lavorati dagli impianti di tritovagliatura, gli STIR. Il trasporto dovrebbe essere possibile fino al 31 dicembre e potrebbe rispondere alla messa in mora della Commissione europea. Clini sarà a Bruxelles il 25 gennaio e tra le varie questioni in agenda discuterà anche dell'emergenza della spazzatura campana. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Via libera del Consiglio dei Ministri alla norma sui bioshopper per i criteri di biodegradabilità e compostabilità. Secondo quanto si apprende, sono stati fissati i criteri che corrispondono ai parametri ritenuti idonei dall'Unione Europea. Torna intanto a crescere la popolazione tedesca, ma non per merito dei tedeschi stessi. Sentiamo perché. Non succedeva da 8 anni. Nel 2011 i tedeschi sono aumentati di 50.000 unità rispetto al 2010, facendo salire a 81,8 milioni il numero dei residenti in Germania. Ma non sono i tedeschi che si sono rimessi a fare figli. Con uno dei tassi di natalità più bassi d'Europa, la popolazione tedesca ha registrato un declino costante per quasi un decennio. L'inversione di tendenza, questo piccolo miracolo, è tutto merito degli immigrati, soprattutto della manodopera proveniente dai nuovi membri dell'Unione Europea, a rivelarlo l'Istituto Statistico Federale. Le nascite dell'anno scorso sono state infatti circa 670.000, i decessi circa 840.000, 240.000 invece gli immigrati arrivati, soprattutto dai paesi che hanno aderito all'Unione nel 2004, in particolare dalla Polonia. È tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie a Filippo Oreggi per l'assistenza in regia e una buona giornata. Da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.